risalgono sulle origini e diventano l'elemento che poi forma gli americani e li trasforma in questo grande popolo multiculturale, multirazziale che abbiamo imparato a conoscere in un esperimento che non capita da nessun'altra parte del mondo. It's pretty good stuff right here. This wrinkles someone's tennis whites. Cosa rappresenta questo spezzone pubblicitario? Beh, si vedono Agassi e Sampras, che sono due campioni del tennis che alla fine degli anni 90 hanno avuto dei match memorabili, sono in un taxi, arrivano con questo taxi, scendono per strada, montano una rete in mezzo alla strada e loro, così antagonisti da sempre, si mettono a giocare in mezzo alla strada, bloccando il traffico e cominciando a scambiarsi queste palline da tennis. Perché ve li menziono? Beh, di nuovo, perché Agassi è di origine iraniana, Sampras è di origine greca, anche i cognomi non sono dei cognomi tradizionalmente americani, eppure quando alla finale degli Open di tennis qui a New York Sampras e Agassi si sono scontrati, nessuno ha avuto il minimo dubbio, credo che non l'abbiate avuto nemmeno voi se avete visto questi match, che non fossero americani doc, perfettamente integrati nel sistema. E dunque questa è una straordinaria forza di questo paese, la capacità di assorbire, di integrare e di trasformare persone che vengono da zone remote in americani veri. Il Thanksgiving è anche questa festa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Non potevamo che dedicarla a Johnny Cash, I Walk the Line. Because you're mine, walk the line. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.